L'Ave Maria di Bobbio, dalla terza raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. L'Ave Maria di Bobbio. Un caso singolarissimo era accaduto parecchi anni addietro a Marco Saverio Bobbio, notaio arricchieri tra i più stimati. Nel poco tempo che la professione gli lasciava libero, si era sempre dilettato di studi filosofici e molti e molti libri di antica e nuova filosofia aveva letti e qualcuno anche riletto e profondamente meditato. Purtroppo Bobbio aveva in bocca più di un dente guasto e niente, secondo lui, poteva meglio disporre allo studio della filosofia che il mal di denti. Tutti i filosofi, a suo dire, avevano dovuto avere e dovevano avere in bocca almeno un dente guasto. Schopenhauer, certo, più di uno. Il mal di denti, lo studio della filosofia, e lo studio della filosofia a poco aveva avuto per conseguenza la perdita della fede, fervidissima un tempo, quando Bobbio era fanciullino e ogni mattina andava a messa con la mamma e ogni domenica si faceva la santa comunione nella chiesetta della Badiola al Carmine. Ciò che conosciamo di noi è però solamente una parte e forse piccolissima di ciò che siamo a nostra insaputa. Bobbio, anzi, diceva che ciò che chiamiamo coscienza è paragonabile alla poca acqua che si vede nel collo di un pozzo senza fondo, e intendeva forse significare con questo che, oltre i limiti della memoria, vi sono percezioni e azioni che ci rimangono ignote perché veramente non sono più nostre, ma di noi, quali fummo in altro tempo, con pensieri e affetti già da un lungo oblio oscurati in noi, cancellati, spenti. Ma che al richiamo improvviso di una sensazione, sia sapore, sia colore o suono, possono ancora dar prova di vita, mostrando ancor vivo in noi un altro essere insospettato. Marco Saverio Bobbio, ben noto arricchieri non solo per la sua qualità di eccellente e scrupolosissimo notaio, ma anche e forse più per la gigantesca statura che la tuba, tre menti e la pancia esorbitante rendevano spettacolosa. Ormai senza fede e scettico, aveva tuttora dentro, e non lo sapeva, il fanciullo che ogni mattina andava a messa con la mamma e le due sorelline, e ogni domenica si faceva la santa comunione nella chiesetta della Badiola al Carmine, e che forse tuttora, all'insaputa di lui, andando a letto con lui, per lui giungeva le manine e recitava le antiche preghiere, di cui Bobbio forse non ricordava più neanche le parole. Se ne è accorto bene lui stesso parecchi anni fa, quando appunto gli era corso questo singolarissimo caso. Si trovava a villeggiare con la famiglia in un suo poderetto a circa 2 miglia da Richieri. Andava la mattina col somarello, povero somarello, in città per gli affari dello studio che non gli davano requie. Ritornava la sera. La domenica però, la domenica, voleva passarla tutta e beatamente in vacanza. Venivano parenti, amici e si facevano gran tavolate all'aperto. Le donne attendevano a preparare il pranzo o cicalavano. I ragazzi facevano il chiasso tra loro, gli uomini andavano a caccia o giocavano alle bocce. Era uno spasso e uno spavento veder correre Bobbio dietro alle bocce e con quei tre menti e il pancione traballanti. Marco, gli gridava la moglie da lontano, non ti strapazzare, bada Marco, se starnuti. Perché Dio liberi se Bobbio starnutava, era ogni volta una terribile esplosione da tutte le parti e spesso, tutto sgocciolante, doveva correre ai ripari con una mano davanti e l'altra dietro. Non aveva il governo di quel suo corpaccio. Pareva che esso, rompendo ogni freno, gli scappasse via, gli si precipitasse sbalestrato, lasciando tutti con l'anima pericolante in atto di pararglielo. Poi, quando gli ritornava in dominio, riequilibrato, gli ritornava con certi strani dolori e guasti improvvisi a un braccio, a una gamba, alla testa, più spesso ai denti. I denti erano la disperazione di Bobbio. Se n'era fatti strappare 5, 6, non sapeva più quanti, ma quei pochi che gli erano restati pareva si fossero incaricati di torturarlo anche per gli altri andati via. Una di quelle domeniche, che era sceso in villa da Richieri, il cognato con tutta la famiglia, moglie, figli e parenti delle mogli e parenti dei parenti, cinque carrozzate, e si era stati allegri più che mai. Paff! All'improvviso, sul tardi, giusto nel momento di mettersi a tavola, uno di quei dolori, ma uno di quelli. Per non guastare agli altri la festa, il povero Bobbio si era ritirato in camera con una mano sulla guancia, la bocca semiaperta e gli occhi come di piombo, pregando tutti che attendessero a mangiare senza darsi pensiero di lui. Ma un'ora dopo era ricomparso come uno che non sapesse più in che mondo si fosse, se un molino a vapore, proprio un molino a vapore strepitoso, rombante, era potuto entrargli nella testa e macinargli in bocca, sì, in bocca furiosamente. Tutti erano restati sospesi e costernati a guardargli la bocca, come se davvero si aspettassero di vederne colar farina. Ma che farina! Bava, bava gli colava. Non questo soltanto, però, era assurdo, tutto era assurdo nel mondo, e mostruoso e atroce. Non stavano lì tutti a banchettare festanti, mentre lui arrabbiava, impazziva, mentre l'universo gli si sconquassava nella testa? Ansando, con gli occhi stravolti, la faccia congestionata, le mani sfarfallanti, levava come un orso ora una cianca, ora l'altra da terra e dimenava la testa, come se la volesse sbattere alle pareti. Tutti gli atti e gesti erano nell'intenzione di rabbia e violenti, ma si manifestavano molli e invano, quasi per non disturbare il dolore, per non arrabbiarlo di più. Per carità, a sedere, oddio, lo volevano fare impazzire, peggio, saltandogli tutti addosso così. A sedere, niente, nessuno poteva dargli aiuto, sciocchezze, imposture, niente per carità, non poteva parlare. Uno solo, andasse giù uno solo a far attaccare subito i cavalli a una delle carrozze arrivate la mattina. Voleva correre a Richieri a farsi strappare il dente. Subito, subito. Intanto tutti a sedere, appena pronta la carrozza, ma no, voleva andare su, solo. Non poteva sentir parlare, non poteva vedere nessuno, per carità, solo, solo. Poco dopo in carrozza, solo come aveva voluto, abbandonato, sprofondato, perduto nel rombo dello spasimo atroce, mentre lungo lo stradone in salita i cavalli andavano quasi a passo nella sera sopravvenuta, ma che era accaduto? Nello sconvolgimento della coscienza, Bobbio all'improvviso aveva provato un tremore, un tremito di tenerezza angosciosa per se stesso, che soffriva. Oddio, soffriva da non poterne più. La carrozza passava in quel momento davanti a un rozzo tabernacolo della Santissima Vergine delle Grazie, con un lanternino acceso, pendulo, innanzi alla grata, e Bobbio, in quel fremito di tenerezza angosciosa, con la coscienza sconvolta, senza sapere più quello che si facesse, aveva fissato lo sguardo lacrimoso a quel lanternino e... Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, benedetta tra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Così sia. E all'improvviso un silenzio, un gran silenzio gli si era fatto dentro e anche fuori, un gran silenzio misterioso, come di tutto il mondo, un silenzio pieno di freschezza, arcanamente lieve e dolce. Si era tolta la mano dalla guancia ed era rimasto attonito, sbalordito, ad ascoltare. Un lungo, lungo respiro di refrigerio, di sollievo, gli aveva ridato l'anima. Oddio, ma come il mal di denti gli era passato, gli era proprio passato come per un miracolo. Aveva recitato l'Ave Maria e, come lui, ma sì, passato, c'era poco da dire. Per l'Ave Maria, come crederlo? Gli era venuto di recitarla così all'improvviso, come una femminuccia. La carrozza intanto aveva seguitato a salire verso Richieri e Bobbio, intronato, avvilito, non aveva pensato di dire al vetturino di ritornare indietro alla villa. Una pungente vergogna di riconoscere, prima di tutto, il fatto che lui, come una femminuccia, aveva potuto recitare l'Ave Maria e che poi, veramente, dopo l'Ave Maria, il mal di denti gli era passato. Lo irritava e lo sconcertava. e poi il rimorso di riconoscere anche nello stesso tempo che si mostrava ingrato, non credendo, non potendo credere che si fosse liberato dal male per quella preghiera, ora che aveva ottenuto la grazia. E infine un segreto timore che per questa ingratitudine subito il male lo potesse riassalire. Ma che il male non lo aveva riassalito. E rientrando nella villa, leggero come una piuma, ridente, esultante, a tutti i convitati che gli erano corsi incontro, Bobbio aveva annunziato: «Niente, mi è passato tutto a un tratto, da sé, lungo lo stradone, poco dopo il tabernacolo della Madonna delle Grazie. Da sé». Orbene, a questo suo caso singolarissimo di parecchi anni fa, pensava Bobbio con un risolino scettico a fior di labbra. Un dopopranzo, steso sulla greppina dello studio, col primo volume degli Essai di Montaigne aperto innanzi agli occhi. Leggeva il capitolo 27, ove è dimostrato che se folie de rapporter le vrai et le faux à notre suffisance. Era, nonostante quel risolino scettico, alquanto inquieto, e leggendo si passava di tratto in tratto una mano sulla guancia destra. Montaigne diceva: «Quand nous lisons d'aboucher les miracles des reliques de Saint-Hilaire, passe. Son crédit n'est pas assez grand pour nous ôter la licence d'y contredire, mais de condamner d'entrain toute pareille histoire me semble singulière et imprudence. Ce grand saint Augustin témoigne». «E già», fece Bobbio a questo punto, accentuando il risolino, «e già, ce grand saint Augustin attesta, o diciamo, autentica d'aver veduto, sulle reliquie di San Gervaso e Protaso a Milano, un fanciullo cieco riacquistare la vista, una donna cartagine guarire da un cancro col segno della croce fattovi sopra da una donna di recente battezzata». Ma allo stesso modo il gran Sant'Agostino avrebbe potuto affermare, o diciamo, autenticare sulla mia testimonianza, che Marco Saverio Bobbio, notaio a Richieri tra i più stimati, guarì una volta all'improvviso d'un feroce mal di denti, recitando un'Ave Maria. Bobbio chiuse gli occhi, accomodò la bocca, adò, come fanno le scimmie, e mandò fuori un po' d'aria. Fiato cattivo. Strinse le labbra e piegando la testa ad un lato, sempre con gli occhi chiusi, si passò di nuovo più forte la mano sulla mandibola. Per Dio il dente! O non gli faceva male di nuovo il dente? E forte anche gli faceva male, per Dio di nuovo! Sbuffò, si levò in piedi faticosamente, buttò il libro sulla greppina e si mise a passeggiare per la stanza, con la mano sulla guancia e la fronte contratta e il naso ansante. Si recò davanti allo specchio della mensola, si cacciò un dito a un angolo della bocca e la stirò per guardarvi dentro il dente cariato. All'impressione dell'aria sentì una fitta più acuta di dolore e subito serrò le labbra e contrasse tutto il volto per lo spasimo. Poi levò il volto a soffitto e scosse le pugna, esasperato. Ma sapeva per esperienza che ad avvilirsi sotto il male o ad arrabbiarsi avrebbe fatto peggio. Si sforzò dunque di dominarsi, andò a buttarsi di nuovo sulla greppina e vi rimase un pezzo con le palpebre semichiuse, quasi a covar lo spasimo. Poi le riaprì, riprese il libro e la lettura. «Une femme nouvellement baptisée lui fit. Hesperius». No, appresso. Ah, ecco. Une femme et une procession ayant touché à la chasse saint Estienne d'un bouquet, et de ce bouquet s'étant frotté les yeux, avoir recouvré le veillis que la voix pièce a perdu. Bobbio ghignò. Il ghigno gli si contorse subito in una smorfia per un tiramento improvviso del dolore ed egli vi applicò la mano su forte a pugno chiuso. Il ghigno era di sfida. «E allora», disse, «vediamo un po' Montaigne e Sant'Agostino mi siano testimoni, vediamo un po' se mi passa ora, come mi passò allora». Chiuse gli occhi e col sorriso frigido sulle labbra tremanti per lo spasimo interno, recitò pian piano, con stento, cercando le parole, l'Ave Maria questa volta in latino. «Gratia plena, Dominus tecum, fructus ventris tui, nunc et in hora mortis». Riaprì gli occhi. «Amen». Attese un po', interrogandola in bocca il dente. Amen. Ma che non gli passava, gli si faceva anzi più forte. Ecco. Ai, ai, più forte, più forte. Oh Maria, oh Maria! E Bobbio rimase sbalordito. Quest'ultima reiterata invocazione non era stata sua. Gli era uscita dalle labbra con voce non sua, con fervore non suo. E già ecco, una sosta, un refrigerio, possibile, di nuovo, ma che no! Ai, ai, ai! Ah, diavolo, Montaigne, Sant'Agostino! E Bobbio si cacciò la tuba in capo e, aggrottando feroce con la mano sulla guancia, si precipitò in cerca di un dentista. Recitò o non recitò durante il tragitto, senza saperlo di nuovo l'Ave Maria? Forse sì, forse no. Il fatto è che davanti alla porta del dentista si fermò di botto, più che mai grondato, con rivoli di sudore per tutto il faccione, in tale buffo atteggiamento di balorda sospensione, che un amico lo chiamò. Signor notaio! Ohè, e che fa lì? Io niente, avevo un dente che mi faceva male. Le è passato? Già da sé. E lo dice così? Sia lodato Dio. Bobbio lo guardò con una grinta da cane idrofobo. Un corno! Gridò. Che è lodato Dio? Vi dico da sé. Ma perché vi dico così? Vedrete che forse da qui a un momento mi ritornerà. Ma sapete che faccio? Non mi duole più. Ma me lo faccio strappare lo stesso. Tutti me li faccio strappare, a uno, tutti. Ora stesso me li faccio strappare. Non voglio di questi scherzi. Non voglio più di questi scherzi io. Tutti, a uno, me li faccio strappare. E si cacciò furibondo tra le risa di quell'amico nel portoncino del dentista. Fine della novella L'Ave Maria di Bobbio.